Tore, Tore. Hola, canale 23. Oh, signor Gio Maria. Eccoci qua, buonasera. Buonasera anche a lì. Si riprendono le trasmissioni. Già è ora. Davvero, già è ora. Come va? Ehi, mi dobbiamo tenere la spazzola nella mura di banco. Non ho capito. Che mi stavo piazzando la spazzola nella mula di banco. Ah, vuol dire che serve quella lì. E la dovrò usare parecchio tra poco. Farò un garrello. Quelle d'acciaio sono le ruote, no? Ehi, quelle d'acciaio dorato. Ehi, va bene. Quella pulisce bene. Ehi, Arugrio, ma ci ho fatto arrivare da fuori, perché qua non ne ho trovato. Oh, ce l'hanno grandi qua. Io ne ho una grande e una piccola. Sì. Però quelli mi attacco al trapano e vanno bene. Sì, ma questa è proprio adatta per la mola da banco. Cazzo, allora vanno più bene quelli lì. La vanno bene. Grazie per no. Metti come si chiama sul disco, metti un disco e raschia bene, poi la fa lucido. Ma dopo devo farlo io, non va bene, devo smontarlo e pulirlo. Hai capito? Invece con la mola a spazzola non va, perché non me lo fa come devo io. Hai capito? Invece lo smonto e lo pulisco lì stesso. Ti ha trovato sempre il punto giusto per poter farlo bene, capito? Mai faccio con la spazzola, dovrebbe andare bene anche sugli angolini, già entro, dai. È proprio il bagno che la giubilata, ma fanno vera cosa, proprio come voglio io. Piano piano già me lo pulisco, smonto, pulisco, vernicio e ripiazzo, se vuole verniciato, se no lo lascio com'è. Io ho quella grandezza, mi sembra che sono 10 o 12 centimetri grande, capito? Attacca la mola, lo sa come pulisce, è un bombone. E poi c'ho quelle piccole che si attaccano strappano a colonna o a quello normale. Fanno bene ugualmente, dai. E questa me la sono fatta arrivare da fuori, è da 125 questa spazzola qua. E quindi noi qua non l'ho trovata come la voglio io. L'ho trovata in internet, me la sono ordinata. Vedete anche in Vigoria che doveva arrivare il 24 o il 27, invece arrivi ad ABI3D. In Italia arriva in 3 giorni, dai. In 3 giorni lavorativo arriva. Noi abbiamo ordinato la moletta a batteria. 3 giorni ci ha impiegato. 3 giorni e lavorativi arrivano, capito? Infatti. È arrivata qua, io grida, ma no, siccome la spedizione mi hanno messo 24 o 27, e di via via, quindi a Puglia, l'ho presa in un sito che ho trovato, mano a mano si chiama questo sito qua, e c'è un sacco di roba, però so che abbiamo un bel roba che chiusa un bel... Certe cose costano, come quelle molette che abbiamo preso noi, cazzo, e che so anche 250-300 euro, ma fuori di lì, cazzo. E poi per il lavoro che facciamo noi, non è che noi lo usiamo perché è il loro mestiere, no, e per faccende di casa vanno bene, capito? 80 euro a casa vanno benissimo, e sono buone, cazzo, sono un gioiello. Faccio. questa casa già è buona ad operarla, i benefici è troppo. Infatti io sto operando il trappolo a batteria per pulire molte cose, le sto pulendo con il trappolo a batteria. E stavo, c'è un compressore piccolo che si porta in macchina per quando si sgonfiano le gomme, l'attaccaccio di sigaretta si gonfia la gomma. Oh, è meglio così allora. Ma è quelli, sono quelli portatili piccolini, sono no, dice tanto ma gonfia una gomma gli altri. Te la gonfia, capita, la gonfia bene pure. Sì. Mi sembra cosa 14 euro e 99, poi 15 euro, gatto cosa vuoi di più? Uno se la mette in macchina, quando la gomma è mezzo gonfia, piglia, attacca e se la gonfia, capito? La gonfia completamente. Basta la cannuccia anche a soffiarci, se la gonfia lo stesso. Cambia signor Macchisio, buonasera signor Macchisio, e la cannuccia non vi la vai, anche non vai da che buffa. Buonasera signor, buonasera Gio Maria. No, con la cannuccia, non con la compressorina, con la cannuccia uno ce la fa. Ma ho visto che era gonfiata qua, c'era uno mio nipote, c'era la combattere, ho visto che ce l'ha gonfiata, è bene pure la gonfiata, dai. Certo, non è come un compressore, però l'importanza è che uno cammini tranquillo, capito? Ma già ce l'ha fatta, perché l'ho avuto anch'io col compressorino, i primi sono 5, l'ho avuto. Salta, ci mette 10-15 minuti a gonfiare la gomma, però ce la gonfia. Ehi, comunque buonasera signor Marchisio, oggi sei in anticipo, meno male, ho fatto un paio di chiamate, a Torre, a te, poco fa, ma nessuno mi ha risposto, un po' in ritardo però, già va bene ugualmente signor Marchisio. Meglio tardi che mai, capito, e oggi vuol dire sono in anticipo, l'orologio andava indietro. Hai visto tu che oggi c'è venuto a trovare prima? Sì, oggi ha trovato prima, no, non è avuto qualcuno che veniva dal garage, no? Oggi l'ha trovato libero? No, oggi non mi trovo via, prima di sedermi nella sedia ha squillato il telefono. Elettricista, per andare a vedere la serranda, e tu non vado, manco bastone, ho lasciato cantare. Se mi dice di lì, no, di tutti. Ma che magari è stato avanti, no? Se mi chiedo, sai, io rientro verso le 6:30, le 7, mi dice, ma vai in garage, noi in garage abbiamo visto che era un lucchetto, mi dice, sei andato, allora mi ha chiamato, e io non ho manco riposo, ho lasciato squilla, finita a morire. Vabbè, la diciamo un altro momento se paghi su. Io la chiamata poi dopo, oggi non ci vado. Oggi non vado in garage, ma come sogno. Finito, a domani. Fai bene signor Macchi. Un attimo Macchi. Vai, signor Macchi. Capio. E io domani alla Lidon c'è che cosa? Il cricco, il compressore. Veramente hanno messo anche in pubblicità c'era le cose per gonfiare le gomme e gonfiare tutto quanto veramente, il compressore e poi un'altra cosa, il clicco non c'era, c'era un'altra cosa, c'era. E domani ci vado, domani a mezzogiorno ci vado a vedere un po', a comprare, non mi prendo la batteria, quello che c'ho non mi piace, però io ho visto che è più veloce. Ma carica batterie di che cosa? Per la macchina? Quello per la macchina. Ah, io già viaggio visto, non me ne voglio nulla. Abbiamo comprato il negozio, ho 115 euro. Io ce l'ho, però mi pare che sia roppio, ce l'ho minimo una ventina d'anni, e più anche di 20 anni. È bellino come il caricabatterie, solo che è vecchio adesso, è stravecchio. Poi lo presti a questo, a quest'altro, a pezzi glielo tolgo. Io ero grillo. Tu quando vieni non prezzi a nessuno, va bene che ci compareggiano. No, è fatta, ma se lo compareggio dopo. E quando mi domanda di carica batteria, non so se funziona, prova. Se non funziona, se lo compareggi. Fagene prima, e così bisogna fare. Certo, se che te lo prendi, te lo dorano a pizzi, non è che te lo dorano in primo, te lo dorano a pizzi. E vabbè. Poi io me lo fa ordinare dal mio genero, quello booster da. Che me, se non mette subito, attacchi quello e te la mette subito in moto la macchina. Che piccolo è. C'è quello con la valigetta e c'è anche il palo, non ho avuto quello lì. Allora, si è scaricata la batteria, no? Perché mi sono trascurato di tenerla in carica. Sono andato a comprare la batteria, costava più la batteria che il caricabatteria, tutto l'apparato intero. E infatti, no, quello che mi ha dato mio genere dice che è buono, ecco giù. So che costa un pochino, costa quasi 150 euro, costa, però... E ti fai, ti mette in moto tutto, ti mette in moto, ed è piccolo, anche qui io c'avevo piccolo, la piccolina c'ha la cosa, la punta positiva e negativo, poi c'è il faretto della luce, c'è il un faretto incorporato, e l'ho preso a 12 volts. Dove sei andato a comprare la batteria? Da coso? Su da CBC? Da CBC, non ce l'aveva, la dovevo ordinare. Mi sembra che adesso veniva 80 erotti euro, hai traccia PD, sono 80 erotti euro, aggiungo qualche centesimo, lo compro nuovo. Infatti, compri la baida in internet, compri la baida che costano di meno le batterie. No, ma adesso non mi serve più perché l'ho smontato, l'ho già capito. Capito, no? L'ho smontato e ci ho portato via tutto. Mi ho tenuto le pinze e lo strumento, l'altro ci ho buttato. Allora, c'è per dire. Tengo un paese d'Oranovo, minorili, già ci sono in internet. Sì, ma tu vuoi comprare la batteria a 80 euro. Ma non ne fai la candela, costa più la batteria che tutta l'attrezzatura che c'è dentro. Vedi, in pratica è un pezzo di plastica con quegli strumenti che c'è all'interno, non so cosa cavolo serve, se per aumentare la tensione o gli ampere, vabbè, boom. Quella roba lì. E poi non c'è altro. La batteria a 80 euro, la carrozzeria che c'è in vecchia, è un carro su. Infatti è così, bisogna... io la gente mi sa che un compareggio, ma manda poi cosa me ne fotta, tiene il luvermino che il lampado, la natretta non funziona più. Esatto, se non lo tieni in moto, in movimento, non serve più, si guasta, infatti il mio si è guastato perché lì messo in garage a un angolo, quando sono andato a prenderlo era scarico. L'ho messo a caricare la batteria, non caricava, lo portavo a farlo vedere al meccanico, ma detto comprati la batteria nuova, metti la batteria nuova, se no dice butta ciò. Infatti, batteria tocca tenere sempre cariche, bisogna caricare ogni tanto, fargli la carica. Lui perché lo usa molto per macchine che non mettono in moto e coso, lo usa parecchio e ce l'ha sempre in movimento. Ma io credo che devo tenere fermo, o gli 150 euro lo impendo. Si rovina, se lo tieni fermo si rovina. Mi sto dicendo che bisogna sempre usarlo, sempre scaricare. E dunque, noi glielo usiamo una volta ogni volta di pappa, si rovina. Infatti quando mi sevo, quando dai, dormo il vostro brissà. Se no quando compreggio la batteria non vuoi fare la batteria non vuoi fare prima. Anche. Anche quello va benissimo. E risparmi anche. Capito? Sei tranquillo, per un paio d'anni la batteria funziona. E mi sa che visa comune ne vede troppo bai sta macchina, va? E ci deve staccare ma la batteria per un momento che mi devo fare la cosa, la distribuzione mi devo fare. Ah, mi devo fare la funziona. Io l'ho fatto il mese scorso, l'ho fatto la cinghia di distribuzione, tutto quello che c'era da fare in pratica, l'ho dato una revisionata di lato. Da me ci vogliono 4 cinghie, ci vogliono. Poi ci vuole la pompa nuova, la mette nuova. Poi un ingranaggio, due cuscinetti con due parauli, mi ha detto, 400 euro. E non è assai, no, è speso di più. È speso di più io a fare quel lavoro lì. Veramente era 4,50, ah, mi sta facendo lo sconto di 50 euro, quindi sono 400 euro. Sono nulla, perché se il lavoro che devono fare ce n'è da fare, capito? Cioè, adesso devo cambiare la marmita, seguo il rotto scatalizzatore e fare il casino, devo giambarla e ci vuole 1300 euro. Bacchi, Asco, io ti lascio per il momento, sto andando da prendere la mia moglie. Va bene, io sono qua, chiama. Bacchi, quando, ma tu sei in fiera di cambiare da collettore a dietro, la marmita? Io, quella della Clio, tutto dal collettore fino a fondo, tutta intera. Perché lì c'è il coso, c'è quello, ma come cavolo si chiama, in mezzo, boh, aiutami. C'è il catalizzatore, ne ha tre catalizzatori questa volta, cavo di macchina, ne ha uno all'uscita dei collettori, uno al centro e l'ultimo in fondo. Addirittura, cazzo, un macello è. Il 300 euro, tu dai dito. Perché in acciaio inossidabile, quel cacchio di marmita, non lo fate in acciaio inossidabile. Cosa? La distribuzione a quanti chilometri hai fatto? A 30.000, 30.000 l'ho fatta. 30.000 ho fatto la distribuzione, e voi il computer diceva era 50.000, ma ho fatto 20.000 km prima. A 30.000 solo, cazzo, che va fatta a 80 kg, 80.000. L'altra che avevo l'ho fatta a 80, la cosa, la 19. Questa qui nel computer di bordo c'era cioè 50.000 km, invece il meccanico me l'ha fatta a 30.000, dice no, la facciamo prima, non ci succede qualcosa, e farla prima, e prima si è preso i soldi e prima si deve ritornare. Allora l'hai sfruttata quella macchina, cazzo, e subito ho fatto 70-80.000, vabbè, è normale, ma prima non penso che succeda niente, perché, perlomeno, non ho mai sentito che prima succedesse qualche cosa, prima di 80, capito? Ecco perché dico il solito di qua 80.000, poi magari, secondo il tipo di macchina, come si usa, magari anche di più, non succede niente, capito? Però è sempre meglio farla prima del previsto, va. Ma a 30.000 la cinghia è ancora nuova, capito? Lui dice no, dice si potrebbe sfilacciare, fare, poi dice il danno aumenta. E va bene, ha detto facciamola, così ha fatto distribuzione, tutto. Filtri, filtrini, candele, candelette, ha cambiato tutto. Capito? Ho detto fammi tutto quello che c'è da fare. Io sono andato, gliel'ho detto, ma dice no, dice si fa 80.000 a 80.000 km, dice no, cambia, io ce l'ho 15 anni, ce l'ho, non lo faccio mai niente a quella macchina, e per cui prima di 80 glielo faccio fare. Io ho 10 anni, 10 anni a questa macchina, non ci ho messo mai nulla. Solo in 10 anni, ripeto, chilometri, adesso ne ho 51.000 chilometri in 10 anni. io ce l'ho 15 anni e ho 56.000 chilometri. Non ci sei un po', non ci sei un poco, che lo usi meno di me. Io la uso poco magari la macchina, a fare le spese qua, un paio di volte sono andato a Cagliari, ma la uso poco, capito, non è che lo uso molto, ma. Ecco la macchina, a quel rodaggio questa macchina mia, sono a camminare, più di 80 l'ho fatto io. Roma sei andato? Ah? Anche a Roma? Ah no, anche a Roma sono andato una volta, non mi ricordavo. E va cambiato poco, per cui ancora già va bene, la marmitta l'avevo già cambiata perché si era bucata, però 100 euro la marmitta me l'ha lasciata, gli ho fatto piazzare la lista. Quella c'è la marmitta separata, invece quella è una maledizione che hanno fatto adesso, parte dai collettori e allo scarico, tutto un pezzo, tutto un blocco. Allora io adesso devo portarla a fare cambiare l'olio, la cartuccia e il liquido del radiatore, non devo fare altro, sono già 15 giorni andato senza andare, che mi sembra che la settimana entrante mi devo decidere per forza. Dove che vai perché tu? No, d'accordo, all'Inter se vado, me lo fa sempre lui, prima la portavo lì all'Opel, però da un giorno che mi ha trattato male non ci sono più andato, gli ho avuto delle parole, capito? Non ho capito, da Pietro lo fai. No, me l'ha fatto Pietro anche a me. È vicino, sono andato alla Renault, devi andare alla Renault, sono andato in a piedi, poi devi andare a prendere la macchina e devi andare a piedi, andarci lì a presa niente, c'è a due passi. No, è quanto a quello, quando facevo italiano, io gliela portavo la mattina e poi e dopo mi riportavo a casa. E dopo mi diceva, a talora se c'è il telefono, che se è libero vengo a prenderci, capì? Quanto a quello già mi accompagnavo, lo capivo. Però un paio di volte sono andato a piedi. No, ma adesso la vado a Liccia, se vai già mi sta trattando bene. Per fare questi lavori così mi ha cambiato anche le pastiglie anteriormente, per cui ho visto che mi ha trattato bene, sto ad andare adesso a fare il cambio dell'olio, capito? È bravo Pietro, quando non sbaglia, una volta ho sbagliato, mi ho fatto pagare l'olio a 80 euro al litro. E quanti anni è? Infatti ho avuto delle parole, ho avuto, dice portami la cosa, la fattura, perché non ho fatto la fattura, non la trovavo. Dopo tanto tempo l'ho trovata e gli ho fatto vedere la vagista, ho detto guarda, asci, ma io glielo dico io, lascia perdere. Infatti ci è andato Marco, ho detto dì che venga e che devi scrivere soli, ma non ho mai voluto. Vabbè, qualche volta anche, posso anche sbagliare, però sbaglio magari che non dovrebbero succedere, perché contro il conducente, no, Bacchi. Io mi sono trovato un po' male il giorno, ho fatto così tanto rispetto, non sono andato. Io andavo parlando con la regista, con Marco, mi fa, dice, no, può essere Marco. Cercava in casa la fattura, l'ho cercata, l'ho trovata, l'ho fatta vedere, ah no, io ci vado e glielo dico, infatti ci è andato io, non sono andato per niente. Ma penso che si sia messo a posto, va? No, adesso già tranquillo, si fa il preventivo prima, dice per fare questo ci vuole tutto, lo vuoi fare, falla. Io quando vado, c'è da fare questo, questo e quest'altro. Quanto vuoi spendere? Tanto, vabbè. Ti lascio. faccio la vacca, telefono quando, quando è pronta e scendo a prenderla. Per quello sì, se ti dice a stanotte è pronta. Adesso c'è un casino nella marmita e c'era il catalizzatore che era a pezzi dentro, faceva casino. Ma portamela che ti l'aprono dentro quei pezzi, così che non c'è questo domanda, sembrava c'era un po' di ferro vecchio appresso. Infatti l'ho lasciata, una mezz'oretta me l'ha fatto. Ma quando è così, sa, è cosa da poco a fanno in fretta, capito? Ho visto che c'è parecchio lavoro, è sempre impegnato con quell'altro, chi è quello lì? Qualche dipendente? Cioè, il figlio è un dipendente, sono in tre, quello di più giovane è il figlio, e l'altro è un dipendente. Ecco, che faccio là? Che faccio là? Invece che dico quando glielo posso portare, lo faccio cambiare, dai. Quelle altre cose me le faccio fare, perché l'olio bisogna cambiarlo. La cartuccia ugualmente, perché l'altra volta non l'ho cambiata, adesso invece glielo cambio. È tutto il liquido del radiatore. Non mi consumava mai acqua, ragazzi. Boh. L'altro giorno guarda, ce ne mancava un dito, tutto strano, Vedi, dove ce ne sono? Ho visto che c'era di meno. Boh. Allora proprio lì qua a cambiarmelo tutto e ci ho messo un po' d'acqua, ci ho messo, normale, però voglio cambiarlo tutto con liquido, capito? Che è l'unico liquido che non corrode. Infatti, tutto non corrode. No, forse anche sia cosa, evaporato, cioè la macchina è ferma, al caldo, anche lui se ne va, capito? Se non consumava più, si consuma, si era accorto, qualche perdita, qualche malassorte c'era, vuol dire che non perde. No, non perdono, perché l'ho controllata anche a caldo, ho visto che non perde. Perché a cavolo andata, non me l'ha mai, era sempre preciso il livello, ma tanti anni, conta 15 anni, no, una volta ho cambiato il liquido, sì, ho cambiato l'altra volta, però sarà 5-6 anni fa, e adesso ho visto che ce la mancava un dito, è tutto strano, allora ho controllata, a caldo, ho visto che non perdeva, era perfetto, forse è evaporato allora, boh. Basta aggiungerlo anche, uno se ne compra un bidoncino e lo lascia in garage, in deposito, quando manca aggiungi. Ma vediamo, comunque adesso glielo faccio cambiare tutto quanto e sono più tranquillo. Oh, già ce l'ho sempre, un litro ce l'ho sempre. L'avevo consumato, adesso me lo compro un litro, me lo lascio sempre disponibile, in modo che se dovessi mancarci qualche goccia glielo metto. No, perché lì bisogna tenerlo sotto occhio, perché diciamo così, il raffreddamento è importante. Il vero olio me lo segna nel computer, il raffreddamento no, tutte le malassorti le vedi nel quadro che vedi di bordo, però il raffreddamento non te lo segna. Certe cose magari non te le segna, dovrebbe segnare tutto, ma se aggiornato dovrebbe essere, deve segnare tutto, non lo so com'è. Ho visto che una volta c'era sullo snodo dello sterzo, mi facevo un rumorino quando andavo tutto sterzo, non riuscivamo a trovarlo, dopo l'ha messo il computer e come l'ha segnato, si può immaginare, c'è uno snodo, una crociera, c'è no, ed era staccata la crociera poco a poco e mi faceva il rumore. Si agganciava, faceva tra. E quando lo mettono il coso, l'analizzatore, tutti i malanni in fuori. E come che quando uno va, una persona va a fare un'ecografia, così è quella della macchina. L'ultimo anni che tira fuori. E adesso con la macchina moderna, se non c'è il computer, meccanico, poi perché oggi sono tutti meccanici, a portare a certe persone una macchina di adesso, a certe persone, o non ci va nemmeno perché non le cava a piedi assolutamente, l'unico l'attacca è il computer, sa già quello che c'è, cosa non c'è. Tutto quello che ha. Tutti malanno. Nella macchina io c'è il computer di bordo, però mi segna i chilometri, il consumo, quanta benzina ho messo, la temperatura, poi a livello dell'olio, quando devi fare la manutenzione, tutte queste barzellette qua ci sono. Magari ci sono tante cose che noi lo sappiamo, però chi è del mestiere, che si è aggiornato, riesce a sapere tutto quello che c'è scritto, capito? Sì, infatti sono passato a mezzogiorno da Pietro, siccome non mi aveva azzerato la manutenzione, non mi aveva azzerata, e sul computer di bordo mi diceva, ogni volta mettevo in moto la macchina, calcolare non ricordo la parola come era, però il primo di era manutenzione, per fare la manutenzione, come mettevi in moto, deve l'olio fare manutenzione, e mi rompeva, stava da Pietro, dice no, mi sono dimenticato della giornata l'altra volta, dice adesso te lo faccio, 2 minuti me l'ha fatto. Un'altra volta è successo che si vedeva accesa la FIA, che non mi ricordo adesso che FIA era, fatto strano, si mi accendeva, si mi spegneva, dopo magari stava, non so, faceva magari 10-12 km e si accendeva, oppure si spegneva, viceversa. Io l'ho portata. C'è qual era? Ha messo il computer, ha toccato due tasti, poi dice va a posto, può andare. Grazie. Ma con voce è della scusata subito. Perché si dice la verità quello lì? La verità, no, la mia se esce stop non cammina più, è bloccata. Perché mi è successo un giorno, sono andato in campagna, era nuovo, non c'era neanche un anno. Arrivo in campagna, l'ho messo tra detto io, non lo metto sempre. E mezzogiorno vado ad andarmene, non so, non metteva in moto. E cos'era? C'era rotto il piantone dello sterzo e non metteva in moto. Evidentemente c'è anche, è collegato anche col pezzo e tante cose, capito? Tante cose, ragazzi, oggi la macchina è truca, tu se ti si ferma in strada devi chiamare il carrattrice e portarsela via chi non riesce a cavarli più, mentre che prima li davo una spinta o cambiavi le candele oppure le puntine platinate, la macchina partiva, ma tu te ne immagini, oggi non lo puoi fare questo qua, se si ferma in strada devi mollarla o chiamare il carrattere e portartela via. Adesso sì, ma io mi ricordo quando c'avevo la 600, quel motore ne avevo sceso 1000 volte, perché ne avevo due, c'era un motore della 600 normale e un motore dell'Alfa 750, e quando mi saliva in testa smettevo, cambiavo motore, ma era una cavolata, 6 bolloni mi sembra che c'erano, c'erano fuori, e usciva tutto in fiero, questo se ci metti le mani non riesci più a togliere i piedi, neanche le mani metterle dentro. Oh, assolutamente, beh, quello ho fatto io pure a cambiare il motore alla 500 panoramica, alla familiare, quella scappottata, a quelle ne avevo due, una me l'aveva regalata a Ciro Savino, la buonanima, questo di sotto qua, che avevo fatto un lavoro e le avevo una io, e le motore le ho cambiato io, infatti. ho messo i cricchi, era cambiato il motore, è facilissimo, anche quello della 600, della 127, anche quello ho cambiato, così che dovevo mangiare, ma oggi è tutto diverso, oggi ci sono tanti di quei bolloni, e non riesce, quei fili, come fai, non saranno, ma chi? No, se ci mette le mani dentro, non le tiri fuori, tu faccia un po' le mie, non si vede neanche le candele, per tirare fuori le candele bisogna smontare il filtro dell'aria, c'è un po' qui di vetine, bolloni, bolloncini, fasce, fascette, di nuovo, le candele non si vedono, sono tutte nascoste, invece nella 127, nella 850, nella 600 li ho avuto, mettiamo quelle quattro candele, un giro di giave, io cambio e stiamo andando. E infatti era così, nemmeno la mia, non so, ma nemmeno dove sono queste candele, ma io non le ho viste mai. Deve essere coperto da qualche tappa, o che ci sono i iniettori, non lo so, ma mi sembra che ci siano le candele. Non lo so veramente dove lo sono, puoi immaginarci. Perché adesso è tutto coperto, per cui non vedi niente. Dunque, soluzione andare da chi fa quel lavoro e il mestiere e basta. Purtroppo è così, e prima invece lui era facilissimo farla partire, ma che oggi no. Manca a finta la puoi far partire, perché è pericoloso che parte la centralina, ma chi? Anche quello, prima invece non c'era quel fatto della centralina, no? Era tutto all'interruttore di minimo e lo spinterogeno e basta. Perché adesso se la metti a spinta è pericolosa, secondo l'accelerata che mi dai. No, non metto neanche a spinta, non spingi niente, oppure dice fai il ponte con un'altra batteria, non va. Pietro mi ha detto, dice, non ti azzardare di fare ponti, di dare corrente dalla batteria tua a un'altra macchina, perché dice la centralina te ne va. Una volta me la sono dimenticato le luci accese tutta la notte e domani mattina vado a mettere in marcia, non mi è partita. Allora, telefonato, già è venuto con un'altra batteria, o carica batteria che era, non so, l'attaccatore 5 minuti, però bisogna rimanere, è stato 5 minuti attaccato, dopo ha messo in marcia ed è partita, perché avevo lasciato le luci accese. Si è scaricata la batteria, l'hai consumata. No, adesso questi capo di avviatori attaccano e via, stai andando, la metti molto subito. Vabbè, ma chi? Sono già le 8, chiudo, dai. Ci sentiamo domani eventualmente, dai, saluto l'attore se rientra. Buon proseguimento, saluto di casa e grazie della chiacchierata, Bachi. A domani, ciao Bachi. Ciao Gian Maria, saluti in casa, è cambiato tutto al 100%. Anch'io me ne vado giù perché anche per me è ora delle 8, è arrivata l'ora. Benissimo, saluto per gli amici che sono in ascolto, se salto gli ascoltoni sono sempre, ma chi si incuriosisce da questo istante. Ciao ancora Gian Maria, a domani. Ok, ciao.